Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Wertheimer era come Glenn figlio di genitori ricchi, non solo benestanti. Io stesso non avevo la benché minima preoccupazione economica. È sempre vantaggioso avere degli amici che appartengono al nostro ambiente e che si trovano nelle nostre stesse condizioni economiche, pensai nella locanda. Dal momento che non avevamo problemi di soldi, ci è stato possibile dedicarci esclusivamente ai nostri studi, portandoli avanti nella maniera più radicale possibile. In effetti non avevamo in mente nient'altro che i nostri studi, anche se dovevamo continuamente sgombrarci il cammino da quelli che tentavano di bloccare il nostro sviluppo. Mi riferisco ai nostri professori con tutte le loro bassezze e porcherie. Il Mozarteum è famoso ancora oggi in tutto il mondo, pur essendo il peggiore istituto superiore di musica che si possa immaginare, pensai. Eppure, se non avessi studiato al Mozarteum, non avrei mai conosciuto Wertheimer e Glenn, pensai, i miei amici per la vita. Oggi non sono veramente più in grado di dire come mi sia venuto in mente di dedicarmi alla musica. Tutti i membri della mia famiglia erano negati per la musica, negati per l'arte, e per tutta la vita niente avevano odiato di più dell'arte e dell'ingegno. Ma è probabile che proprio questo sia stato per me determinante e mi abbia indotto a innamorarmi un giorno del pianoforte, da me all'inizio solamente odiato, e a barattare un vecchio air bar di famiglia con uno Steinway davvero meraviglioso, allo scopo di far vedere agli odiati familiari la strada che avevo deciso di imboccare e che fin dall'inizio li aveva sconvolti. Non è stata l'arte, né la musica, né la voglia di suonare il pianoforte, è stato solamente l'opposizione contro i miei che mi ha indotto a dedicarmi alla musica, pensai. Odiavo suonare il pianoforte su quel loro airbar. I genitori me lo avevano imposto come a tutti gli altri membri della famiglia. L'airbar era sempre stato il loro perno artistico e tutti in famiglia lo avevano sempre suonato fino agli ultimi brani di Brahms e di Reger. Io questo perno artistico di famiglia lo avevo sempre odiato e in compenso avevo amato lo Steinway estorto a mio padre e fatto arrivare da Parigi con atroci peripezie. Dovetti andare al Mozarteum per dimostrare ai miei familiari che di musica non capivo niente e che suonare il pianoforte non era mai stata la mia passione. Eppure mi servii del pianoforte allo scopo di contrastare i miei genitori e la famiglia intera. E così cominciai giorno dopo giorno e anno dopo anno a padroneggiarlo contro di loro con un virtuosismo sempre più grande. Andando al Mozarteum mi sono messo contro di loro, pensai nella locanda. Il nostro Erbar troneggiava nella cosiddetta sala da musica ed era il perno artistico di famiglia che permetteva ai miei di pavoneggiarsi nei pomeriggi del sabato. Lo Steinway lo scansavano, la gente non veniva, lo Steinway aveva posto fine all'epoca del loro Erbar. Dal giorno in cui cominciai a suonare sullo Steinway, la casa dei miei genitori perdette il suo perno artistico. Lo Steinway, pensai nella locanda, mentre ero in piedi, mi guardavi intorno, era rivolto contro i miei. Al Mozarteum ci sono andato per vendicarmi di loro, per nessun altro motivo ci sono andato per punirli dei crimini da essi perpetrati contro di me. Adesso, per figlio, avevano un artista, una figura ai loro occhi detestabile. E io sfruttavo il Mozarteum contro di loro, impiegavo tutti i mezzi del Mozarteum contro di loro. I miei sarebbero stati soddisfatti se io avessi rilevato le loro fornaci e suonato per tutta la mia vita sul loro vecchio airbar. Per questo mi ero staccato da loro, installando nella sala da musica quello Steinway che era costato un patrimonio e che in effetti avevo dovuto far trasportare da Parigi nella nostra casa. Prima avevo insistito sullo Steinway, poi, come si addiceva allo Steinway, sul Mozarteum e, come oggi devo ammettere, non tollerai contraddizione alcuna. Di colpo stabilii di voler essere un artista e cominciai a pretendere tutto. Li avevo colti di sorpresa, pensai guardandomi intorno nella locanda. Lo Steinway fu il mio baluardo contro i miei genitori, contro il loro mondo, contro l'ottusità della mia famiglia e del mondo. Io non ero nato, al contrario di Glenn e forse perfino di Wertheimer. Dico forse perché non posso dirlo al 100%. Io non ero nato per diventare un virtuoso del pianoforte, ma semplicemente mi costrinsi a diventarlo, mi immedesimai nella cosa, mi misi in testa di diventare un virtuoso. E devo dire che lo feci con la massima spietatezza nei confronti dei miei. Grazie allo Steinway mi era stato possibile ad un tratto presentarmi sulla scena contro i miei. Ero talmente disperato che per oppormi a loro decisi di diventare un artista. La soluzione più ovvia era che diventassi un virtuoso del pianoforte, possibilmente subito un virtuoso del pianoforte di fama mondiale. L'odiato Erbar nella nostra sala da musica mi aveva fatto venire in mente questa idea, ed è sfruttando questa idea come arma contro di loro che l'ho portata alla più alta ed eccelsa perfezione. Ma nel caso di Glenn le cose non sono andate diversamente, e nemmeno nel caso di Wertheimer, il quale si è dedicato agli studi artistici e dunque musicali con l'intento, a quanto ne so io, di irritare suo padre, pensai nella locanda. Per mio padre è una catastrofe, mi ha detto Wertheimer, il fatto che io studi il pianoforte. Glenn diceva la stessa cosa in modo ancora più radicale. Quelli odiano me e il mio pianoforte. Io dico Bach e a quelli vien subito da vomitare, diceva Glenn. Già il suo nome era celebre nel mondo e i suoi genitori seguitavano implacabili ad avversarlo. Ma se Glenn aveva mantenuto una sua coerenza e alla fine, sia pur soltanto 2 o 3 anni prima di morire, era riuscito a persuaderli di essere un genio, Wertheimer ed io invece abbiamo finito col dare ragione ai nostri genitori, mandando ben presto a monte la nostra attività di virtuosi, tra l'altro in un modo quanto mai avvilente, come più volte ho sentito dire da mio padre. Tuttavia, il fatto di essere fallito come virtuoso del pianoforte non è stato per me altrettanto angoscioso come per Wertheimer, il quale per tutta la vita fino alla morte ha sofferto di aver rinunciato al pianoforte e di essersi consacrato alle scienze dello spirito, delle quali fino alla fine non è riuscito a capire che cosa siano in realtà, come del resto io non so tuttora che cosa sia il campo filosofico e la filosofia in genere. Glenn è il trionfatore. Noi siamo i falliti, pensai nella locanda. Glenn ha concluso la sua esistenza proprio nel momento giusto, pensai. E non si è ucciso da sé, dunque, con le proprie mani, come ha fatto Wertheimer, il quale non aveva altra scelta e ha dovuto per forza impiccarsi, pensai. Come la fine di Glenn era prevedibile da molto tempo, così anche la fine di Wertheimer era prevedibile da molto tempo, pensai. Sembra che Glenn sia stato colto dall'ictus nel bel mezzo delle variazioni Goldberg. Wertheimer non ha sopportato la morte di Glenn. Dopo la morte di Glenn si è vergognato di essere ancora in vita. Il fatto di essere, per così dire, sopravvissuto al genio è stato per lui, a quanto so io, un motivo di tormento continuo nell'ultimo anno della sua vita. Passati 2 giorni da quando avevamo letto sul giornale che Glenn era morto, ricevemmo un telegramma dal padre di Glenn, il quale ci comunicava la morte di suo figlio. Appena si sedeva al pianoforte, subito Glenn si raggricciava tutto, pensai. E allora sembrava una bestia, ma a guardarlo più attentamente pareva uno storpio, e se lo si guardava ancor più attentamente appariva come quell'uomo bello e intelligente che in effetti era. Lui, Glenn, aveva imparato il tedesco dalla nonna materna e questa lingua, come ho già accennato, la parlava correntemente. Con la sua ottima pronuncia umiliava tutti i nostri compagni di studio tedeschi e austriaci, i quali si esprimevano in una lingua tedesca sciatta e trasandata, e per tutta la vita non fanno che esprimersi in questa lingua tedesca sciatta e trasandata, perché non hanno la minima sensibilità per la loro lingua. Come può un artista, diceva spesso Glenn, non avere sensibilità per la propria lingua? Portava pantaloni sempre uguali, anche se non sempre gli stessi. Camminava con passo leggero, mio padre avrebbe detto signorile. Amava le definizioni limpide e odiava tutto ciò che è impreciso. Autodisciplina era una delle parole da lui predilette. La diceva di continuo anche a lezione da Horowitz, a quanto mi ricordo. Gli piaceva moltissimo, poco dopo la mezzanotte, fare ancora 2 passi giù in strada o comunque uscire di casa. Questo l'avevo già notato a Leopoldskron. Dobbiamo ogni tanto andare a prenderci un po' d'aria fresca, diceva, altrimenti saremo impediti nel nostro procedere e paralizzati nel nostro intento di raggiungere risultati davvero eccelsi. Con se stesso era l'uomo più spietato che si possa immaginare. Non si concedeva la più piccola inesattezza. Solamente dal pensiero estraeva i suoi discorsi. Detestava le persone che parlano senza aver finito di pensare. Dunque detestava quasi tutta l'umanità, e da questa umanità da lui detestata si era in effetti ritratto già da più di 20 anni. È stato l'unico virtuoso del pianoforte di fama mondiale che abbia detestato il suo pubblico e che da questo pubblico così detestato si sia veramente ritratto una volta per tutte. Del pubblico non aveva bisogno. Acquistò una casa nel bosco. In questa casa si sistemò e continuò a perfezionarsi. Abitò con Bach questa casa americana fino alla morte. Era un fanatico dell'ordine. L'ordine regnava in tutta la sua casa. Quando io insieme a Wertheimer vi misi piede per la prima volta, non potei fare a meno di pensare al suo peculiare concetto di autodisciplina. Una volta entrati nella sua casa, lui, anziché domandarci se avevamo sete o simili, si mise allo Steinway e ci suonò quelle parti delle variazioni Goldberg che già aveva suonato per noi a Leopoldskron il giorno prima della sua partenza per il Canada. Suonò esattamente come allora, con la stessa perfezione di allora. In quell'istante ebbi la certezza che in tutto il mondo non esiste un altro che sappia suonare come lui. Si raggricciò tutto e cominciò a suonare. Suonava, per così dire, dal basso verso l'alto, non come tutti gli altri, dall'alto verso il basso. Era questo il suo segreto. Per anni ero stato tormentato dal dubbio se fosse giusto o meno fargli visita in America. Un dubbio meschino. Da principio Wertheimer non voleva venire, dovetti insistere per riuscire a persuaderlo. La sorella di Wertheimer non era d'accordo che suo fratello andasse a far visita al celeberrimo e a suo avviso per lui pernicioso Glenn Gould, ma Wertheimer alla fine si impose contro sua sorella e venne con me in America da Glenn. Di continuo mi ero detto: non avrò altra possibilità di vedere Glenn. Aspettavo infatti la sua morte, volevo assolutamente vederlo ancora una volta, volevo sentirlo suonare, pensai, mentre in piedi nella locanda respiravo il cattivo odore che c'era e che già conoscevo dai tempi passati. Vancam era un paese che conoscevo. Sempre a Vancam ero sceso in questa locanda quando mi ero recato in visita da Wertheimer. Da Wertheimer, infatti, non potevo pernottare. Egli non sopportava che un ospite si fermasse in casa sua per la notte. Mi guardai intorno in cerca della padrona della locanda, ma non si sentiva alcun rumore. Wertheimer odiava gli ospiti che si fermavano per la notte. Davvero li detestava. E comunque gli ospiti, quali che fossero, lui li riceveva, ma subito dopo il loro arrivo li metteva cerimoniosamente alla porta. Con me non l'avrebbe mai fatto di mettermi subito cerimoniosamente alla porta. Ero troppo in confidenza con lui perché potesse permettersi una cosa simile, ma in ogni caso preferiva che dopo un paio d'ore io scomparissi, perché se fossi rimasto avrei magari deciso di pernottare da lui. Non ho mai pernottato in casa sua, non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo, pensai continuando a guardarmi intorno in attesa della padrona della locanda. Glenn era un uomo da metropoli, come me del resto, e come Wertheimer. Noi tre veramente amavamo tutto delle metropoli e odiavamo la campagna, che però, come anche la metropoli, ma in modo diverso, sfruttavamo fino al limite estremo. Wertheimer e Glenn alla fine erano andati in campagna per via dei loro polmoni ammalati. Wertheimer c'era andato controvoglia, più ancora di Glenn in ultima analisi, per il fatto che davvero non riusciva più a sopportare l'umanità intera. Wertheimer per quei suoi ininterrotti accessi di tosse in città e perché il suo internista gli aveva detto che nella metropoli non esisteva per lui alcuna speranza di sopravvivere. Per più di 20 anni Wertheimer ha trovato un rifugio presso sua sorella nella casa del Kohlmarkt, in uno degli alloggi più grandi e più lussuosi in tutta Vienna. Ma poi sua sorella si sposò con un cosiddetto grande industriale svizzero e si trasferì nella casa del consorte a Zizers, nei pressi di Coir. Proprio in Svizzera, come diceva Wertheimer rivolgendosi a me, e proprio col padrone di un complesso chimico, un legame disastroso, mi ha piantato in asso, si lagnava continuamente Wertheimer. Nella casa improvvisamente vuota, lui era stato all'inizio come paralizzato. Per giorni e giorni dopo la partenza della sorella era rimasto immobile, seduto su uno sgabello. Poi si era messo a correre come un pazzo per tutte le stanze, avanti e indietro, continuamente, e alla fine si ritirò a Traich, nel casino di caccia che era stato di suo padre. Comunque, dopo la morte dei genitori, Wertheimer ha convissuto per 20 anni con sua sorella. E questa sorella, come io so bene, l'ha tiranneggiata, sequestrata, per così dire incatenata a sé, e le ha reso impossibile per anni e anni qualsiasi contatto con gli uomini e con la società in genere. Ma lei è esplosa e lo ha mollato tra quei vecchi mobili sfasciati che entrambi avevano ereditato. «Come ha potuto farmi questo?» ha detto lui a me, pensai. «Ho fatto di tutto per lei, mi sono sacrificato per lei, che invece mi ha mollato, mi ha semplicemente piantato in asso e ora se ne va in Svizzera, corre appresso a quell'uomo che ha fatto i soldi da poco, un tipo con un carattere orribile», ha detto Wertheimer, pensai nella locanda. «Proprio a Coira, in quella zona atroce dove il fetore del cattolicesimo arriva fino al cielo». «Zizers, che schifo di nome per un paese!» esclamò un giorno e mi domandò se per caso non fossi mai stato in quel paese, e a me venne in mente di essere passato varie volte da Zizers andando a St. Moritz, pensai. «Ottusità, monasteri, complessi chimici, non c'è altro», diceva, «nient'altro che questo». Più di una volta giunse ad affermare che per amore della sorella aveva rinunciato alla carriera di virtuoso del pianoforte. «Ho smesso a causa sua», diceva. «Ho sacrificato la mia carriera. Ho sacrificato tutto», diceva. «Tutto ciò a cui tenevo di più». Con questa menzogna cercava di tirarsi fuori dalla sua disperazione, pensai. La casa del Kohlmarkt si estendeva su 3 piani ed era piena zeppa di tutte le opere d'arte possibili e immaginabili, ciò che a me, ogni volta che andavo a trovare il mio amico Wertheimer, dava un senso di oppressione. Lui stesso diceva di odiarle, queste opere d'arte, le aveva tutte accumulate sua sorella, diceva, a lui non gliene'era mai importato niente, le aveva sempre detestate e comunque dava la colpa di tutta la propria infelicità alla sorella che lo aveva piantato in asso per seguire quel megalomane di uno svizzero. Una volta mi disse seriamente che si era immaginato di diventare vecchio insieme a sua sorella nella casa del Kohlmarkt, qui, in queste stanze invecchierò con lei, mi disse una volta. Le cose sono andate diversamente, la sorella gli è sfuggita di mano, gli ha voltato le spalle, probabilmente pensai proprio all'ultimo momento. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.